ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Corpi, seconda serie. I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. I morti tra scienza e giustizia. Il corpo era stato trovato una sera, nella campagna della Brianza, da una coppia che passeggiava a cavallo vicino a un fiume, su una macchia d'erba in cui ogni filo aveva assunto il colore rosso cupo del sangue ormai essiccato. I medici legali intervenuti sul posto avevano effettuato ogni rilievo necessario. La bassa temperatura e la rigidità degli arti denotavano che Mone era morta da un po', forse la notte precedente. All'autopsia la salma aveva un'apparenza illeggibile. Il volto, le mani e gran parte dell'addome erano ricoperti da una pellicola violacea di sangue, in parte essiccato. Focalizzai lo sguardo sul volto. Nonostante il lavaggio non mi parve più pulito. Mi resi conto che il disordine leggibile in ciò che normalmente costituisce un viso umano era dovuto al grande numero di tagli che lo attraversavano, rendendolo simile a qualcosa uscito dalla mano di Picasso, e spiccavano sulle mani lacerazioni nette, concentrate sui polpastrelli. Una, in particolare, raggiungeva la falange sottostante, forse il segno dell'estremo tentativo della vittima di allontanare da sé la lama. Ehi! Ciao. Col DNA come siamo messi? I capelli trovati nella culla del bambino sono pronti per il confronto. Già. Ho una ventina di senza nome in una sparatoria per droga. Richiesta speciale dell'FBI. Devo occuparmi di questo caso, precedenza assoluta. Lo scenario in cui ci troviamo a lavorare è in realtà quello che vive nell'immaginario collettivo del medico legale o del patologo forense, quello che si occupa delle autopsie sulle morti sospette, sugli omicidi, e quindi lo sanno tutti un po' come il nostro lavoro, grazie anche alla grandissima pubblicità che ci viene fatta dalle serie televisive, dai talk show, eccetera. Quindi c'è il sopralluogo, dove si va sulla scena del crimine, poi si passa all'autopsia, dove si fa un attentissimo esame esterno e poi si guarda anche l'interno del corpo, e poi si passa agli esami di laboratorio, facendo i prelievi che poi andranno dal genetista, dal tossicologo e tutti gli altri esperti che serviranno per quel caso. C'è stata un'evoluzione enorme delle scienze forensi, della medicina legale, e la viviamo questo progresso lo viviamo nei singoli casi, per esempio dalle unghie, da ciò che ha lasciato l'aggressore sotto l'unghia della vittima siamo in grado, non soltanto avendo un sospetto di chi sia l'aggressore, identificarlo, ma anche se non sappiamo chi è, ormai la genetica è in grado di farci un identikit di colore degli occhi, colore dei capelli, anche la forma del naso, oppure siamo in grado, io mi ricordo una volta sull'omicidio, nel caso dell'omicidio di una ragazza molto giovane, analizzando ogni singola coltellata, noi avevamo fatto dei prelievi, dei tamponcini molto banali intorno alla lesione per capire qual era lo strumento che aveva potuto lasciare dei residui per aiutarci appunto a capire di che cosa fosse fatto il coltello. Invece abbiamo trovato dei residui di cemento, dei residui di sferette di metallo che ci hanno portato a capire che la ragazza era stata a contatto con un ambiente edilizio. Tutto questo ci fa capire che ormai la chimica, la merceologia, tutte queste scienze ci aiutano a vedere anche l'invisibile, e addirittura a volte uniamo l'aspetto della ricerca con l'aspetto del singolo caso. Se non ci sono le conoscenze all'interno di un caso, possiamo creare un vero e proprio progetto di ricerca per raccogliere i dati che ci mancano per interpretare i fatti. Una volta ci è successo in un caso di un omicidio dove un ragazzo era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi bruciato, il cadavere era stato quasi tutto distrutto, eppure abbiamo trovato un frammento con un piccolo foro dove era passato il proiettile, era molto molto distrutto questo foro, e avevamo trovato dei residui di piombo, dei residui della struttura metallica del proiettile, soltanto che essendo stato bruciato e distrutto era difficilissimo interpretarli come tali. Abbiamo quindi fatto degli esperimenti su delle coste da una macelleria, abbiamo sparato queste coste, le abbiamo bruciate, abbiamo visto che il quadro che ci restituiva questo progetto di ricerca era uguale identico a quello del caso, e quindi siamo riusciti, tra virgolette, a risolvere questo problema. Se c'è la volontà, se ci sono i fondi, se c'è comprensione da parte di tutti, la scienza può veramente fare tantissimo, non soltanto le scienze forensi, ma anche proprio la medicina legale. Tony Fracasso, professore di medicina legale dell'Università di Ginevra. La medicina legale negli ultimi 10-15 anni è cambiata molto, e questo non è particolarmente sorprendente se si considera che la medicina legale è una specialità medica come tutte le altre. Quello che facciamo, che non si faceva fino a qualche tempo fa, è per esempio un'indagine radiologica sistematica su tutti i corpi che arrivano in istituto. Fino a qualche tempo fa si pensava che l'autopsia virtuale potesse essere uno strumento rivoluzionario capace di rendere ormai inutile e obsoleta la vecchia autopsia. Questo si è dimostrato non essere vero, ma non significa che le tecnologie introdotte, la radiologia appunto, non sia estremamente utile. In realtà quello che facciamo oggi è che prima di un'autopsia abbiamo già un'idea di quello che andiamo a trovare, quindi la radiologia penso che sia una delle innovazioni tecnologiche più interessanti e più importanti. Le attività medico-legali sono costose. Questo è sicuramente vero, ma sono costose come qualunque tipo di attività medica. Questo penso che sia fondamentale mantenerlo ben in mente. Tutta la medicina è costosa, la medicina legale non può essere economica, è esattamente costosa come gli altri tipi di specialità. La questione è quindi se si investono dei soldi nella medicina legale o meno, sapendo che le investigazioni medico-legali, le indagini medico-legali fatte al risparmio non sono utili. È evidente quindi che anche la radiologia è ormai non un lusso, ma qualcosa di fondamentale per riuscire a ricostruire quello che è successo e per riuscire a praticare bene la medicina legale. E per radiologia non parliamo soltanto di lastre, parliamo di TAC, addirittura di risonanze magnetiche che possono essere effettuate sul cadavere. Facciamo un esempio, l'esempio di un bambino maltrattato, che è una delle cose più toccanti che può capitare, più difficili e complesse che può capitare al medico legale. Ora, per riuscire a capire che cosa è successo a questo bambino, noi sappiamo che dobbiamo cercare vari indicatori. Uno degli indicatori sono le fratture, ad esempio, delle coste. E lo schiacciamento del torace si traduce in fratture costali, che però hanno una certo disegno, una determinata direzione. Nel momento in cui io apro il torace, apro il corpo, quando vado a fare l'autopsia, posso perdere questi rapporti. Quindi mi serve fare la TAC prima, perché attraverso la TAC io avrò una ricostruzione tridimensionale di tutte le fratture costali prima ancora di toccare e di cambiare le cose. E questo è fondamentale se vogliamo capire correttamente come si sono prodotte queste fratture e capire se c'è stato maltrattamento. Non si esce da questa cosa. Quindi ormai l'avanzamento scientifico, sempre a livello medico-legale, fa sì che non possiamo più fare le cose a metà. Dobbiamo farle completamente per poter dare delle risposte degne dell'avanzamento scientifico di oggi. Come la medicina legale, anche le scienze forensi, quindi la tossicologia, la genetica, la merceologia, la geologia, l'archeologia, hanno fatto degli avanzamenti enormi, ed è emozionante lavorare con ormai delle eccellenze nel paese, in Italia, perché le abbiamo noi le eccellenze, non soltanto a livello universitario, ma anche nei RIS dei carabinieri e anche nelle polizie scientifiche, dove ormai da quando si fa il sopralluogo a quando si lavora in laboratorio c'è un passaggio di informazioni, uno scambio di tecniche scientifiche, e quindi noi sappiamo dai loro laboratori, ad esempio dai laboratori del RIS, che attraverso tecniche molto avanzate e poco distruttive, che si può andare a vedere anche il più piccolo frammento di vernice lasciato sull'indumento dell'investito dalla macchina che lo ha ucciso. Questi potenziali sono ovviamente dovuti all'avanzamento scientifico, ma non è soltanto un avanzamento di cose di laboratorio, ma è qualcosa proprio di culturale. Ad esempio, parlavo di spettroscopie che possono aiutare a identificare le vernici delle macchine, e queste spesso sono mutuate da ambiti che non ci immagineremmo neanche, dai beni culturali. Quindi spesso noi andiamo a bussare alla porta di chi studia i pigmenti nei dipinti antichi per capire come applicare le stesse tecniche in un caso di omicidio. E questo non soltanto è interessante, ma è estremamente affascinante. Nei prossimi anni vedremo sicuramente degli sviluppi interessantissimi, dal sopralluogo alle indagini di laboratorio. Claude Roux, direttore del Center for Forensic Science, University of Technology di Sydney. Una delle domande più frequenti della gente è: qual è il futuro? Che cosa c'è di nuovo nelle scienze forensi? E io mi sento di dire che stiamo attraversando un periodo molto impegnativo per le scienze forensi, perché abbiamo davanti molte opportunità, ma anche molte sfide. E una cosa che sta accadendo è la trasformazione digitale della società. Molte delle cose che prima facevamo fisicamente, usando carta e penna, adesso le facciamo digitalmente e di conseguenza lasciamo molte più tracce digitali nella vita di tutti i giorni che possono essere analizzate. Un altro aspetto che vedo e che rappresenta una opportunità per i servizi di tipo forense è la decentralizzazione e l'impiego di molte nuove tecnologie che possono essere utilizzate tempestivamente sulla scena di un crimine e che ci fanno immaginare una scienza forense del futuro diversa da come l'abbiamo sempre conosciuta, all'interno di grandi laboratori dove si compivano indagini chimiche e biologiche. Penso che il futuro sia davvero luminoso per la scienza forense. Corpi. Corpi. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Corpi. Corpi, seconda serie. I morti tra scienze e giustizia. Malgrado questi avanzamenti della scienza e questo potenziale, in Italia perlomeno, lo vediamo a Milano, c'è un enorme scollamento tra quello che è l'avanzamento delle scienze forensi e quindi tutto il suo potenziale e l'utilizzo. Siamo in un periodo storico in cui si fanno sempre meno autopsie e questo è abbastanza grave. Siamo andati a valutare un periodo di tempo della casistica di Milano e abbiamo visto che soltanto nel 30% delle morti sospette viene chiamato il medico legale. Questa è una cosa molto preoccupante, perché il sopralluogo è quel momento in cui si congela la scena del crimine e quindi si possono perdere e acquisire tantissime cose. Sappiamo anche purtroppo che soltanto nel 4% delle morti sospette si fa tutto, cioè dal sopralluogo all'autopsia alle indagini di laboratorio, e dobbiamo porci quindi delle domande. Se tutto è fondamentale, perché non si fa tutto? C'è una perdita di fiducia da parte delle forze dell'ordine e da parte della giustizia nei confronti della medicina legale, malgrado gli avanzamenti scientifici? O è una questione solo di fondi? Forse c'è troppa poca comunicazione tra il mondo della giustizia e il mondo della scienza. Forse c'è anche una burocrazia eccessiva che rende molto pesante fare tutto nei tempi richiesti. Insomma, c'è da chiedersi qual è il motivo di questo scollamento e se questo mondo delle scienze forensi e della medicina legale, che dovrebbe restituire giustizia a dei crimini efferati, ma anche meno efferati, sia in crisi. Giuseppe Gennari, giudice del Tribunale di Milano. Per quanto riguarda l'uso delle scienze forensi, il rapporto scienza e diritto, direi che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una parabola crescente e poi discendente dal mio punto di vista. Cioè siamo passati da una stagione in cui sembrava che la scienza fosse in grado di rispondere a qualunque tipo di interrogativo, qualunque tipo di dubbio che si potesse porre in corte, ad una fase di dubbio, di perplessità e tutto sommato di scarso utilizzo, di sottoutilizzo di quelle che sono le risorse tecnico-scientifiche in ambito giuridico, in ambito di diritto penale. Esiste un fortissimo gap dal punto di vista formativo e culturale. Io parlo per quella che è la categoria che conosco, la categoria dei magistrati, e il livello di ignoranza in senso letterale di quelle che sono le possibilità tecnico-scientifiche e anche di quelli che sono i limiti è, ahimè, estremamente elevato. Ma l'aspetto che io trovo più critico, l'aspetto che trovo più drammatico, se vogliamo, è che fondamentalmente trovo che non vi sia interesse ad acquisire una conoscenza in questi ambiti. Voglio anche dire, ad esempio, la Scuola Superiore della Magistratura, che si occupa di formazione generale di magistrati e che dovrebbe essere, no, il volano culturale per la formazione della magistratura, dedica, se va bene, un corso all'anno a queste tematiche, un corso all'anno al quale partecipano 40-50 magistrati, un corso che, senza volere criticare nessuno, comunque è necessariamente organizzato così, un po' in maniera spot, uno schizzo di genetica, un lampo di neuroscienze, due parole di antropologia forense e poi torniamo tutti a casa. E evidentemente non è questo il modo per costruire una solida base per un utilizzo consapevole di questi strumenti. D'altro lato, io non, ovviamente non faccio parte della comunità scientifica, però forse anche da parte della comunità scientifica sarebbe necessario, come dire, un diverso tipo di sforzo di comunicazione e di garanzia, come dire, di standard di qualità, di standardizzazione delle procedure, di diffusione di queste procedure, in modo tale che per chi non opera in quel settore, come appunto il giudice, possano esservi dei punti di riferimento forti. Sembra quindi che sia un problema di comunicazione, anche i giuristi ce lo dicono, è un problema di educazione delle due categorie, la categoria giustizia e la categoria medica, ma di educazione su come conoscere i potenziali, i metodi di lavoro di entrambi. Quindi sicuramente se il problema è soltanto questo, la soluzione c'è, una soluzione sicuramente politica, educativa, ma la soluzione c'è. Io parlo per la classe scientifica, ovviamente, e noi dobbiamo fare tantissimo per far sì che si conosca quello che va fatto, che si conosca l'importanza a livello sociale. Non è più accettabile che, ad esempio, un medico legale vada sul posto. A me è successo di vederlo fatto qualche anno fa ancora, quindi in tempi relativamente recenti, e che invece di prendere la temperatura rettale dell'orecchio, dell'ambiente, per calcolare l'epoca della morte, si è fermato al termotatto, cioè a sentire con la mano quanto era freddo il cadavere. Questo non è più accettabile. Tutti non ridiscono, però finché noi non stabiliamo delle regole molto specifiche, scientifiche, facciamo conoscere che non si può lavorare senza i requisiti minimi e non andremo da nessuna parte, e quindi direi che questo è un passo importante che dobbiamo fare noi scienziati. Si tratta anche di fare un ragionamento più sottile. Il ragionamento è quello del territorio e della tutela del territorio. È molto difficile far comprendere come la medicina legale e l'autopsia giudiziaria, quindi finalizzata a vedere se quella morte è legata alla colpa di qualcuno, è molto difficile capire come possa aiutare i vivi e tutelare i vivi. Però c'è un esempio molto lampante. Io mi ricordo quando sono entrata in specialità negli anni 90, si faceva non soltanto l'autopsia a molti più morti, ma si facevano le indagini tossicologiche di routine su tutti i morti, e soltanto così si riusciva a capire le morti perché avvenivano, a che droghe nuove erano associate, perché avvenivano tanti incidenti del traffico con soggetti sotto l'effetto di nuove sostanze. E soltanto andando a ricercare, a cercare all'interno del corpo, all'interno dei prelievi che facciamo, possiamo monitorare la società e prendere dei provvedimenti per tutelare i vivi. Riccardo Zoia, presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. I temi della medicina legale nel territorio, nell'epoca contemporanea, sono sicuramente molto complessi, molto gravi, e certamente riguardano una specie di panorama che va rivoluzionato integralmente, perché se si vuole in Italia avere una prospettiva di adeguamento a dei criteri scientifici e moderni, attuali, è inevitabile che l'organizzazione attuale vada radicalmente modificata, e va radicalmente modificata perché bisogna, ad esempio, sul profilo dell'organizzazione del servizio autoptico, arrivare ad una determinazione di tipo territoriale omogenea, uniforme, che abbia delle situazioni ripetibili con delle strutture che siano dei riferimenti costanti per quello che l'autorità giudiziaria fa in tutto il paese. Noi dobbiamo avere delle strutture di eccellenza, di riferimento per ogni singola procura, dove ci sono delle situazioni che sono situazioni organizzate in modo costante per raggiungere l'obiettivo reale, che poi è quello del controllo del territorio sul serio, che è quello di avere una possibilità di svolgere autopsie ad alto livello, con completezza scientifica e con una criteriologia che non sia lasciata alla libertà di nessuno, nemmeno nella scelta dei casi nei quali le autopsie devono essere fatte, perché sappiamo che scientificamente si trova ben chiaro davanti a tutti coloro che studiano questi argomenti in una maniera organica che quando si deve fare un'autopsia medico-legale è noto a tutti. Purtroppo questo tema invece diventa un tema fondamentale, ma proprio per la garanzia dell'applicazione di tutte le scienze forensi secondo dei criteri che non sono dei criteri che devono portare alla rilevazione di chissà quali obiettivi di carattere futuribile, ma sono proprio gli elementi chiave dell'applicazione scientifica per il controllo ordinario del territorio, che si sa è basato grandemente sulla possibilità di fare indagini scientifiche sempre complete, omogenee e che siano sostanzialmente fruttifere per alcuni risultati che sono la rivelazione di quello che anche non appare nella situazione superficiale di analisi di un caso. L'autopsia medico-legale non può essere soltanto l'elemento di eccezionalità nel caso che fa cronaca, perché questo è esattamente il contrario di quello che deve essere l'impostazione delle scienze forensi nel futuro. La medicina legale bisogna che abbia una voce in questo paese, più forte di quella che noi stiamo cercando di dare, e che sia in qualche maniera costantemente confrontata con il sistema politico. È una cosa difficilissima, però ci rendiamo conto che emergono continuamente anche delle norme che sono state fatte di rilievo medico-legale gigantesco, dove l'apporto culturale medico-legale non è assolutamente mai stato considerato. Queste cose bisogna in qualche maniera che siano superate, cioè che il colloquio diventi veramente una situazione proficua, così come per le sale anatomiche, così come per queste strutture, così per tanti altri temi. Sono tutti all'interno della cultura medico-forense, all'interno della cultura medico-legale, che è una delle più forti, importanti forme di protezione, prevenzione nell'ambito dell'organizzazione della società moderna. Siamo tecnici, forniamo qualche tassello che, tra i tanti altri, servirà a sostenere o a confutare, magari qualche volta a provare un'ipotesi. Ma è anche vero che se il tassello è difettoso, manca del tutto o non è accompagnato dalle istruzioni per l'uso su come inserirlo nel complesso finale, il mosaico può uscirne irrimediabilmente distorto. Solo con delle analisi complete e con una giusta interpretazione dei dati, lo studio dei morti può aiutare la giustizia. Letture tratte dai libri Corpi, scheletri e delitti e Naufraghi senza volto di Cristina Cattaneo, Raffaello Cortina Editore.